finisce la lezione. È solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere. Mercoledì 19 gennaio 22:54 minuti primi in questo momento. Sintonizzati e sintonizzati sulle frequenze di Radio Onda Rossa agli 87.9 della banda romana e laziale, nonché in DAB. Da Terni e da Perugia e da Roma, nonché www.ondarossa.info, il sito della radio. Andando sul sito stesso è facile ascoltare in streaming Onda Rossa con ascoltare la diretta. Altresì che la radio dal 1977, cioè da 48 anni, quasi, manca qualche settimana. Un paio di mesi, insomma, abbondanti. 3 mesi. Tre mesi abbondanti e poi appunto sarà il compleanno della radio. Già tra l'altro ve lo anticipiamo, fervono i preparativi, come fervono i preparativi di un'altra iniziativa che ci sarà un po' prima e che sarà così anche. Un'altra occasione per incontrarci tutte e tutti. Ancora tacciamo, va, poi vi diremo dalla prossima settimana. Poi dai, teniamo le carte coperte, tanto già qualcosa è trapelato. Dicevamo, sostenete la radio nel 1977. Con ogni forma di contributo, sia esso di dibattito, di partecipazione, di corrispondenza, di impegno nella radio. La radio è una radio, è un primo piano di Via delle Voci che hanno visto veramente girare migliaia di facce diverse in questi studi a diverso titolo e con impegni e ruoli differenti, ma comunque tutti importanti. Non ultimo ovviamente è il contributo economico che si versa alla radio. Vi ricordiamo il numero del conto corrente postale di Radio Onda Rossa, 6180 40 01, da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001 00185 Via dei Volci 56 Roma San Lollo, nonché appunto andando sul sito testè nominato. Andando su sostieni c'è tutto scritto bello, la pappardella. Per avere tutte le informazioni necessarie e sostenere Radio Onda Rossa. ondarossa@ondarossa.info per le vostre comunicazioni via email, 25 o'clock, 25 scritto al numero, @ondarossa.info per molestare il sottoscritto. 06 4917 50, recapito telefonico di Radio Onda Rossa, pure quello storicissimo dal 1977, sempre uguale. Vi ricordiamo il 22 febbraio, bandiere rosse al vento, via Ponte Bianco, ore 16. E ore 17, corteo antifa. E a concludere il concerto in via Monteruggero alle 20. 1980-2025, un'idea non muore, Valerio Verbano. Quindi sabato prossimo. L'appuntamento per tutte e tutti, come tutti gli anni. Corteo antifascista per Valerio Verbano. Radio Onda Rossa, 25 o'clock, Ring of Fire, Star Ridgway. Come Star Ridgway è questa roba qua? E qui, vabbè, facciamo la trasmissione più facile e allo stesso tempo la più difficile. questa sera non abbiamo voluto, potuto. It was in the jungle wars of 65. Metterci nei panni dell'organizzatore della puntata, così che con ospiti normalmente che facciamo per ricordare. Passato il 15 febbraio. Così per continuare un po' a così a ritornare sui nostri passi, a guardarci indietro, a capire, a interrogarci sul passato per capire il futuro, ovviamente, come sempre. Ma anche perché poi parlare su queste note ci risulta estremamente familiare e contribuisce appunto a questo salto a peppari nel passato. E più esattamente a 23 anni fa o giù di lì, quando trasmettevamo e parlavamo sopra questa sigla, ex sigla di Next Time, creatura nata essenzialmente dalla mente un po' così bislacca, birichina, insomma non facilmente catalogabile, di Roberto Massi Patata, in collaborazione, in combriccola con il nostro Conte Max. Tardi si inserì Caronte, si inserirono altre figure che passarono più o meno per un certo periodo di tempo nella allargata redazione di Next Time, poi sopraggiunse il sottoscritto anche qualche anno più tardi, un paio d'anni più tardi. Insomma, stiamo parlando di anni 80. Metà degli anni Ottanta, noi arrivammo appunto, ci affacciamo, facemmo capolino nel lontano 1987. E questa roba durò fino al 2002. A quello spazio seguì invece lo spazio che state ascoltando, con all'incirca 6 mesi di pausa per riprendersi un attimo dal colpo e capire anche cosa era necessario e cosa avevamo bisogno di fare noi altri rimasti con quella pesante eredità. Fatto sta appunto che abbiamo iniziato con Star Ridgeway, Ring of Fire e poi Camouflage, che è la traccia successiva in questa raccolta, in realtà non il vinile originale ovviamente, che girava in quelle serate e quelle notti. Cercheremo quindi di ripercorrere quelle atmosfere in maniera abbastanza, almeno in questa sera, fedele. Manderemo, se non andiamo errati, se mi ricordo bene quella che è la scaletta di questa sera, tutte tracce datate intorno a quegli anni là, quindi a cavallo fra gli anni 80 e i primissimi anni 2000, ma forse non sforeremo nemmeno oltre il 2000. E quindi un'altra Ring of Fire, stavolta Social Distortion, una delle altre cose che all'epoca giravano molto spesso e volentieri. We'll be right back. Fa parte dei tre dischi questo Social Distortion, dei Social Distortion 1990, dei tre dischi diciamo firmati per un contratto firmato con la Epic, e cioè con una major. In realtà poi loro iniziarono e proseguirono con varie etichette che non definiremo proprio indipendenti, ma comunque piccole etichette. All'epoca dicevamo avanzi di galera, proprio perché lo stesso Mick Ness più volte si era affacciato oltre le sbarre, e non è, sappiamo, non era e non è difficile negli Stati Uniti. Che ci fosse all'epoca Bush padre, oppure pel di carota adesso, insomma, le cose non sono cambiate da questo punto di vista. E in realtà, al di là delle chiacchiere, le cose non sono mica tanto cambiate. L'impero, l'impero. E a malincuore lasciamo le note dei Social Distortion. ma per abbracciare altre note di quelle che ti avvolgano e ti portano via. Certo, non ci rivolgiamo adesso ai pischelli, non ci rivolgiamo nemmeno a chi ha ascoltato o ha visto quel festival là, quella specie di barzelletta del Festival della Canzone Italiana. Poi ogni tanto qualcuno dice, qualcuna afferma che sì, ci sono stati altri anni in cui il Festival di Sanremo, però beh, com'è, basta, anche no, almeno dal nostro punto di vista, dalla nostra postazione, il Festival di Sanremo ci è sempre sembrato una gran cagata. E quindi chi invece all'epoca lottava per contro la poll tax e che ogni tanto fa capolino da ste parti anche, e chissà che pure con pel di carota non riprenda forma e vigore, e c'è una tassa uguale da far pagare a tutti. ...1991... c'era ancora Margaret Thatcher e Julian Cope, oltre a suonare, prendeva pure i cartelli e andava a manifestare nella Gran Bretagna dell'epoca contro la poll tax. E dal suo Peggy Suicide ci andiamo ad ascoltare If You Loved Me At All. Julian Cope, Radio Onda Rossa, 25 o'clock, con grande piacere. Love me at all, there lies my head, it's blown. Better still if you love me at all. Don't have a face just to call my own. Defend your race, defend it all. If you love me at all. If you love me at all. Pretty, pretty, be my love. Listen to me if you love me at all. These thoughts come racing in. If you love me at all. I can't allow my heart to be burning. I couldn't stop my head from busting. If you love me at all. If you love me at all. If you love me at all. Love me at all. The boat of love has been capsized inside of land, but we're cold and drifting. And if I seem to be yawning, the restless sea must be my yearning. If you love me at all. If you love me at all. If you love me at all. If you love me at all. And if you love me at all, you keep your hounds away, away. And hear my cries, you be loving. Hear my cries, you be hearing. If you love me at all, if you love me at all. If you love me at all. Don't want you know if you are lonely. Cantavano Bob Wood, Greenheart, accompagnati al basso da Greg Norton, quindi in arte Art Oscar Du. Da St. Paul, capoluogo capitale del Minnesota. Candy Apple Gray era il disco, appunto, per gli Oscar Du. E per ricordare anche Greenheart, scomparso. A Minneapolis il 13 settembre del 2017. Peraltro provenienti appunto da uno stato, da un luogo e da un tempo in cui non era facile così fare coming out e raccontare della propria omosessualità o bisessualità, in questo caso per Greenheart e Bob Mould. E quindi rimanevano così queste realtà abbastanza così celate, nascoste. Questo però non toglie a una parentesi di circa 10 anni di grandissima produzione musicale per quanto riguarda Oscar Du e grande influenza in tutto quello che era poi la scena musicale, inizialmente hardcore e poi sempre più ballads, più alternative come potremmo dire dell'epoca. 3:32 minuti primi, Radio Onda Rossa 25 o'clock, 06 491750, recapito telefonico di Dinosaur Junior. Dal lavoro Where You Been, Get Me. Formazione che nel 1991 era formata da Jay Mascis, ovviamente. Alla voce e alle chitarre, al basso invece c'era Mike Johnson, non Lou Barrow, che appunto aveva suonato con la formazione originale fino al 1989, e Marf alla batteria. E quindi ci spostiamo di un bel po' di chilometri sull'altro emisfero, in quel di Sydney. Stiamo parlando di Dave Faulkner, Brad Shepard, Mark Kingsmill e Richard Gromson. Magnum Luther era il lavoro, questo qui del 1996, se non andiamo errati. No, andiamo errati, ricordavo male, 1989. Udugurus, quindi. Noi ci ascoltiamo Hallucination, quindi. Mantenendoci sempre sui suoni di quell'epoca, di quella lunga stagione, Radio Onda Rossa a 25 o'clock, ricordando Next Time, ricordando colui che fu l'animatore di Next Time per tanti anni, Roberto Patata. Dai. Rimarremo volentieri ad ascoltarlo proprio tutto questo lavoro, che poi in realtà non è il disco originale, ma un lavoro postumo che raccoglieva un po' tutta il meglio e le tracce più significative per quanto riguarda la produzione e scusate la ripetizione degli Junior Carbide Production. Stavolta dalla Svezia, per andare a solcare un'altra di quelle che un'altra scena di quelle che allora veniva dichiarata la neopsichedelia. E cioè la scena scandinava, anch'essa ricchissima. In quegli anni e ancora oggi. Oh, 23:45 minuti primi, le frequenze di Onda Rossa. Questa è 25 o'clock 06491750, recapito telefonico. ci calmiamo un attimo perché andiamo su una delle altre grandi passioni di Roberto e nostre di quell'epoca. Poi diventarono molto famosi, potremmo dire mainstream, ma all'epoca non li cagava nessuno. Stiamo parlando di Rapid Aid Movement o REM. L'album è del 1988, il loro primo album, Murder mi pare si chiamasse, era del 1981 e appunto per lunghi anni rimasero comunque nell'ambito della scena più sommersa e alternativa. Le loro erano delle ballate piuttosto poetiche e difficilmente interpretabili dato la cripticità dei testi. I testi di Michael Stipe. E noi ci andiamo ad ascoltare appunto da Green, l'album del 1988. Oran Crash, REM, a Radio Onda Rossa. Follow me, don't follow me. partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. Streets, 'cause she's my companion. I walk through the hills, 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses the wind. And I never worry, now that is a lie. I don't ever want. Minuti primi e siamo nella Los Angeles dei primi anni 90. E loro sono ovviamente Red Hot Chili Pepper. In a world that can be so insane, I don't think it's very strange for me to be in love with you. Praticamente un super gruppo che ha visto veramente una pletora di componenti, turnisti, eccetera, eccetera. Formazione originale: Anthony Cletz, Flea, Chad Smith, Joe Frusciante. Forse una delle prime formazioni sinceramente crossover, capaci quindi di unire funk, ballate, rock and roll. con una enorme cretticità. Under the Bridge abbiamo ascoltato. E di seguito, che però è appunto una ballata in senso classico e di quelle come pochi le riuscivano a suonare come suonavano loro, peraltro molto poco, sì. Si narra, si racconta quanto siano stati dei musicisti eccellenti. Ricordiamo l'intervista che abbiamo fatto con Giollelli ormai 15 anni fa qua negli studi della radio. E lo stesso Giollelli partecipò al progetto Ataxia con Gio Frusciante. Un progetto appunto data all'epoca anche ancora la estrema ipercinetica o ipercinesismo, come si dice? Vabbè, insomma, Gio Frusciante era ipercinetico, poteva dedicare a un progetto 2-3 giorni, basta, poi bisognava chiudere, mandare alle stampe subito una nuova avventura, insomma. Insomma, rimaniamo nell'ambito del crossover e forse in quelli che sono stati per tutti gli anni 90 i migliori interpreti di quel modo di suonare. Stiamo parlando ovviamente di Rage Against the Machine. Andiamo quindi al 1998. Questo era il loro album Rage, fatto tutto di cover. O giù di lì. Pistol Grip Pump, seconda traccia per quanto riguarda Rage Against the Machine, Radio Onda Rossa, 25 o'clock. Fucking with other niggas shit, but they can't be fucking with mine. Pistol grip, pump on my lap at all times. Pe. Che il messaggio non è proprio venuto, non è che è venuto bene. E manco male, non è proprio venuto. 25 o'clock, onda rossa, 87.9 della nozione di frequenza della banda romana e laziale. In dub da Terni, da Perugia e da Roma. Indian woman, lay down your www.ondarossa.info per ascoltare in diretta, ascolta la diretta dal sito della radio. E quindi da capo, da Ceremony, Cult, questa è Indian. Standing at the edge of the world. Standing at the edge of the world. and your head. Standing at the edge of the world. Standing at the edge of the world. Standing at the edge of the world. The world. Percorrere quegli anni passati insieme a Next Time Radio Onda Rossa e possiamo trovare tracce nel nostro automatico che non dimentica niente, la compagna automatica Sonata, che è un archivio costruito in tanti anni. Ovviamente all'epoca Radio Onda Rossa non aveva un computer perché non ce n'erano. Fino insomma ai primi secondi anche anni 90 si andava avanti con un attrezzo che era un mangianastri multiplo da prima, in cui si mettevano le cassette C90, selezioni che proveravamo noi stessi, e quelli andavano a rotazione in automatico, di tanto in tanto si cambiava un nastro e Poi più tardi una cassetta doppia, andavano già le cassette C120, 120 minuti, quindi 240 minuti di musica che coprivano un po' la notte a rotazione. E poi si arrivò ai primi computer, insomma adesso chiedere di ricordare al sottoscritto impresa ardua, perché non ci ricordiamo nulla, nemmeno della scorsa puntata, quindi abbiate pazienza. Però sappiamo che i Clash a quell'epoca sapevano racchiudere una infinità di ritmi con grandi influenze tropicali caraibiche. Giamaicani. In tutto quella fervente Londra di quegli anni. E comunque Rudy Canfield non può sbagliare, Rudy. Da un inno all'altro, quindi. Quando Roberto si rasò a zero, Sham 69, If the Kid Are United Live, Radio Onda Rossa 25 o'clock. E qui si susseguono le vite, insomma, non portate proprio a termine, a partire da Joe Strummer. E arrivare a Porcey, quindi l'inno degli inni. If the kids are united, dai. We'll be right back. Jack Barnes, Ian McCullum, Eric McMordi e Steve Grantley in arte, Steve Littenfinger. '80 per questo lavoro. Che prendeva il nome dal singolo, diciamo, Nobody Heroes. Invece quella che abbiamo ascoltato è Fly the Flag. Ovviamente riferita alla Union Jack, alla bandiera britannica abusiva in quel di Belfast. E ovviamente The Lifter Finger prendevano per il culo questo patriottismo dell'impero britannico. Oggi ci sembra un tantinello in difficoltà. Torniamo finalmente anche in qualche selezione per quanto riguarda i suoni e le band che provengono dai nostri territori. Non potevano mancare Erode. Questa è Auf Wiedersehen, Radio Onda Rossa, 25 o'clock.

accade più nulla ormai. E quel piccone deve battere più forte del tuo cuore. Con la schiena rotta torna a casa, dice amore. E l'indomani sarà buio come sempre stato. Vedrai correre lontano chi non ha mai pagato. Ma sogni ancora prati verdi e gente lì a cantare. Senza sudore puoi capitale affondare. Basta il lavoro e l'occidente affonda. E basta produzione a rischio l'estinzione. L'aria che migliora, la gente si ritrova. Basta il lavoro, dico, basta il lavoro. Basta il lavoro e l'occidente affonda. E basta produzione a rischio l'estinzione. L'aria che migliora, la gente si ritrova. Basta il lavoro, dico, basta il lavoro. Ogni serata d'agosto non ha più luna né stelle. Ma vedi oltre ogni festa ciminiere, non fermarsi mai. Radio Onda Rossa 87,9 della modulazione di frequenza da Roma e provincia, in dub da Roma, Perugia, Terni. Dopo The Redskin farei sentire, se mi sentissi vivo ti farei vedere quello che cover the statues con in mano questa eccellente produzione targata 2001, e puoi farmi avanti se che appunto allo scadere di un'ora e tutta la crew da patata in giù o in su. Presentò appunto in quell'anno che la mia schiena è dritta, come so dare la mano e come guardo lontano e come so cambiare dal Friuli Venezia Giulia, e come so afferrare quel poco che rimane, e che nulla è un gioco, l'ho capito da poco, ma so come rimediare. E da Senza Sicura, quindi dal nord-est passiamo al nord-ovest. E c'è da Torino, Fratelli di Soledad. Questa è Col Sangue agli Occhi. 06 491750, dai. Non era voluto, anche se ci stava. Come Again, Col Sangue agli Occhi. Thank you. 41 minuti dopo la mezzanotte, e sì, volevamo essere brevi e invece... E appunto parlavamo di Allo scadere di un'ora, un'altra di quelle trasmissioni storiche che durò un bel po' di anni, insomma. La chitarra. Fine anni 80, metà anni 90 all'incirca. E qui veniamo proprio a un pezzo di Allo scadere di un'ora. E poi ci avviamo alla conclusione. Salutando quindi Alberto il Dottorino. Questo è Shot in the Dark, quindi, e la lunga version o remix di Swing Weezy. Ricordando il 22 febbraio, bandiere rosse al vento, via di Montebianco alle ore 16, un fiore per Valerio, Carla e Sardo. Dalle 17, corteo Antifa, concerto a chiudere a via Monte Ruggero alle 20. 1980, un'idea non muore. 2025, Valerio Verbano, ricordiamo, 22 febbraio. Sabato prossimo. Noi nel frattempo un fiore invece a Roberto Antonio Gabriella. In quel di Mentana lo siamo andati a portare. Va bene, Swing Easy. Nato a Kingston. Shot in the Dark, Radio Onda Rossa, 25 o'clock. Hai sparato allo sceriffo. Solo un colpo dritto al cuore.

giovedì 20 febbraio 2025 alle ore 18:15 sulle frequenze di Onda Rossa. Mercoledì 26 febbraio 2025 alle ore 17, Università La Sapienza di Roma. Università La Sapienza, Facoltà di Lettere e Filosofia, Aula Sesta, il tempo del genocidio, ne parliamo con Sama Jabr. Sama Jabr, psichiatra, psicoterapeuta e scrittrice, racconta la vita quotidiana nella Palestina occupata che resiste al colonialismo sionista brutale e devastante. Se la solidarietà internazionale e terapeutica è vitale per il popolo palestinese, il Sumud che ci insegna che con la sua resistenza dà senso alle lotte di tutte le popolazioni oppresse nel mondo. Coordinamento di solidarietà con il popolo palestinese, UDAP, GP e COR, Comitato Romano contro Carcere e Repressione. 26 febbraio alle ore 17, Università La Sapienza, Facoltà di Lettere e Filosofia, Aula Sesta. Ancora un'altra conferenza di Sama Jabr in dialogo con il collettivo antipsichiatrico Senza Numeri, l'associazione Non Tanto Precisi. Samud, l'assistenza come risposta collettiva al trauma dell'oppressione, 28 febbraio 2025 alle ore 17:30 presso via Castel Guidone 4 a Roma. Già ne abbiamo ripetuto, insomma, 22 febbraio, bandiere rosse al vento, via Monte Bianco. Un fiore per Valerio e poi il corteo alle 16, dal corteo alle 17. Noi vi lasciamo in compagnia della compagna automatica Sonata con le sue selezioni notturne. Alternate alle repliche delle trasmissioni di Radio Onda Rossa. Il palinsesto riprenderà questa mattina con la lettura delle prime pagine dei giornali, rassegna stampa cittadine e redazionali della mattinata di Radio Onda Rossa fino alle ore 12:30 circa. 12:45 la replica di Impatto, dalle 14 alle 15 tutta scena cinema. Dalle 15:30 alle 16:30 replica di Disorder, dalle 17 alle 18 La Schiena del Sol, dalle 20 alle 21:30 Tabula Rasa. 22:45 il nostro fagiolino con i Noctibus Panis a seguire. Fino a mezzanotte un po'. I Cuginetti d'Apostasia. Il nostro saluto più importante va a tutte e tutte coloro che ci ascoltano in condizioni di limitata libertà personale, carcere, latitanza, clandestinità, arresti domiciliari, centri di detenzione per migranti, decreti amministrativi e via dicendo. Noi ci risentiamo mercoledì prossimo, bella a tutte e tutte, dai con la luna comunista. Let it begin tonight, we'll win. Dreams, I'll share our dreams under a communist moon.